Apprendo che siete gravemente malato. Con ansia attendo da voi una notizia consolante e vi spero come in una cosa certa, anche se ormai mi sono abituato a temere in ogni frangente sempre il peggio. Poiché la morte, a ben guardare, è l'ultimo e il vero fine della nostra vita, da qualche anno sono entrato in tale familiarità con questa sincera e carissima amica dell'uomo che la sua immagine non ha per me più nulla di terribile, ma mi appare molto tranquillizzante e consolante. Ringrazio Dio di avermi concesso la fortuna di poter, voi mi capite, riconoscere in essa la chiave della vera felicità. Non vado mai a letto senza pensare che, per quanto sia giovane, l'indomani forse non ci sarò più. Eppure nessuno tra tutti coloro che mi frequentano potrà dire che in compagnia io sia triste o di cattivo umore. La vita del Kapellmeister Wolfgang Gottlieb Mozart, pubblicata a Praga nel 1798, è la prima biografia del compositore, scritta, sostiene l'autore Franz Niemeczek, prestando fede soltanto a fonti originali. Così leggiamo. Mentre stava componendo la Clemenza di Tito per l'incoronazione a Praga di Leopoldo II, Mozart andava con degli amici in una caffehouse non lontano da casa per distrarsi col biliardo. Giocava, canticchiava tra sé e sé un motivo e spesso, quando un altro stava tirando, estraeva dalla tasca un libricino, lo guardava rapidamente, poi riprendeva a giocare. Si restava stupiti quando si sedeva al pianoforte e suonava con gli amici il quintetto del flauto magico, che comincia proprio con quel motivo che gli era venuto in mente giocando al biliardo. Vienna, 14 ottobre.